Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Radio La Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente. Non ho detto gioia. Del popolo italiano, la Corte d'Appello di Milano assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo A perché il fatto non sussiste e dal reato ascrittogli al capo B perché il fatto non costituisce reato. L'udienza è tolta. Grazie a tutti. Caro Parenzo, scelgo per iniziare questa puntata, che ovviamente sarà dedicata in gran parte alla vicenda della soluzione di Berlusconi, un sobrio commento del compagno Fulvio Abate. Il compagno Abate. Senti, sono 35 secondi, sentite tutti, popolo della radio, popolo della Zanzara, un sobrio commento, come quello che io ho scritto su Twitter oggi, per carità. Sobrio commento. Berlusconi assolto. La FICA non può essere processata. La FICA non può essere reato. Mi sono andato a iscrivere a Forza Italia. Guarda, mi hanno dato anche il distintivo. Berlusconi è assolto. La FICA non può essere processata. La FICA non può essere reato. Dici che non va bene per le 18:36? No, mi pare molto essenziale, asciutto, non pane bianco, non galli della loggia, ma asciutto. Perché diciamo la verità, c'era la cosa. Scusami, no, ma stai zitto, stai fermo. Ma devi stare fermo, devi stare zitto. Non puoi interrompere la poesia, non puoi interrompere il racconto, non puoi interrompere il verbo, non puoi interrompere il capo, aspetta. Vorrei leggerti alcuni pensieri che sono stati detti oggi. Per esempio, la signora Sabina Guzzanti. Sai chi è, no? O te lo sei dimenticato? Sai chi è? No, perché non so che fa. Che mestiere fa adesso? Che mestiere fa adesso, signora Guzzanti? No, mi ricordo Sabina, che era in televisione. Era una volta. Ma che fa adesso? Che mestiere fa adesso, signora Guzzanti? Ma io non mi occupo di cosa fa la Guzzanti. Ma io non mi occupo. Comunque, signora Sabina Guzzanti, che dici? Un paese in cui ai posti di comando ci sono solo subdoli pezzi di merda. Rubi, riferita alla sentenza Rubi. Cosa c'entra un paese in cui ai posti di comando ci sono solo subdoli pezzi di merda? Una cosa pazzesca, dai. Allora, c'è anche un deputato dei 5 Stelle, il signor Brescia. Berlusconi assolto, alla fine del processo Rubi cambia verso. Dove si può vomitare? Ma scusa, vabbè. Oh, io c'ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh. Scusami, Giorgia. Vabbè, faccio una presentazione. Poi è pieno ho di la fila brutti. Ti spiego anche più. Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare. Punto quarto, pensano, lui è vecchio, muore subito e io eredito. Torno a una condizione. La prossima volta, cattivi, eh? Beh, amici miei, qualcuno dice Cruciani è contento, ricomincerai. Che cos'è che ha scritto un cretino, un imbecille, un deficiente su Twitter o da qualche parte? Quando adesso ricominci a scodinzolare dietro a Berlusconi, ma amico mio, sei un cretino, sei una testa di C. E più tardi, dopo le 8, mi dicono che dopo le 8 si devono dire certe cose. Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, no, lo dico adesso, anzi, sei una testa di cazzo, perché io semplicemente non scodinzolo davanti a nessuno, capito? Ragiono con la mia testa, sbaglio magari, sbaglio perché si sbaglia. Però il più contento è Brunetta, sicuramente Brunetta è più contento di me, a me non me ne frega niente alla fine, non me ne frega nulla alla fine. Brunetta, che addirittura dice che ci vuole una commissione d'inchiesta. Senti, poi Berlusconi ha pianto, pare, Dopo la gioia, dopo le lacrime di gioia, adesso occorre la verità. Commissione d'inchiesta sul colpo di Stato del 2011, su quello che è successo in quegli anni, perché vede, la vicenda Ruby dura da 4 anni, da quando i produttori di fango hanno cominciato... Dice anche che adesso è il momento della grazia, ed effettivamente si parla della possibilità che è assolto dalla vicenda Ruby, che però non è ancora finita perché c'è la Cassazione, ma chissà se ci sarà il ricorso. Questo è il paese infinito, questo è un paese dove alcuni giudici possono è il paese dove alcuni giudici possono interpretare dei fatti dando 7 anni a una persona, e un anno dopo, senza che sia arrivato praticamente nulla di nuovo, altri giudici possono invece dare 0. Cioè, voi capite che siamo in balia di queste interpretazioni. Cioè, uno può cadere in una rete micidiale, diciamo la verità, è così. La grazia, dice Brunetta, la grazia. Per quanto riguarda la grazia, io credo che sia solo un problema di decenza, decenza, da parte di chi la grazia, per Costituzione, la può e la deve dare. Oh, è con noi caro Parenzo, che è in diretta da Ponza. Pensate voi, io che cosa devo sopportare mentre noi siamo qui nell'afa più totale. Parenzo è a Ponza. Giuliano Ferrara invece è in campagna a casa sua. Buonasera. Buonasera. Ciao Giuliano, ciao. Allora, ma che facciamo con la Boccasini adesso? Non so, è un po' complicata la faccenda. Tutti hanno diritto al rispetto. Però noi abbiamo anche il diritto di difenderci da queste specie di orchi che ci spiano, ci intercettano, ci trascrivono integralmente, e alla fine il risultato con chiarezza ci calunniano con un elemento anche di perfidia, insomma, ecco. Io non so se la Boccasini è proprio davvero una carogna, ma lo sospetto. Ah, sospetti che sia addirittura una carogna? Perché diciamo la verità, adesso io questa cosa qui non è che la dico oggi che Berlusconi è stato assolto, Giuliano la dice da tanto tempo, abbiamo partecipato insieme alla sua manifestazione sulla mutanda, eccetera eccetera, però io lo dico da tanto tempo, e effettivamente i comportamenti di Berlusconi ama essere circondato per un periodo, ha amato essere circondato da tante donne, feste, cose, al di là di quello che ha fatto, scopato, non scopato, questo è un altro discorso, però la realtà è che molti dei dettagli sono venuti fuori solo dalle intercettazioni, certo, anche dalle interviste di alcune ragazze, dalle foto, eccetera eccetera, però molti dettagli alla base di questo processo e alla base dello sputtanamento universale di Berlusconi presso tutte le cancellerie mondiali sono venute fuori solo dalle intercettazioni. Questo è un dato di fatto, non è, cioè, non si deve essere berlusconiani o anti-berlusconiani in questo caso, è un dato di fatto. Ma chi è che Giuliano, chi si deve vergognare oggi? Ma io credo che si debbano vergognare quelli che hanno costruito un processo che non aveva nessun senso e che era soltanto la piattaforma per una grande campagna politica, ideologica, culturale e moralistica, e naturalmente anche gli autori di quella campagna, che non hanno tutti la toga sulle spalle. Tra i nostri colleghi ce ne sono molti. C'è Repubblica, per esempio. Io non me la voglio prendere con la memoria di Giuseppe D'Avanzo, però quando uno in una intera carriera riesce a scrivere che Mauro Rossagno è stato ucciso dai suoi amici e non dalla mafia, come certificato da una sentenza di tribunale, e che Berlusconi è il capo di un racket di prostituzione, insomma, voglio dire, sempre ripeto, io dico, la memoria lasciamola in integra. Però tu dici che fu uno dei fondatori. Ha degli eredi che continuamente si premiano, si celebrano nei festival famosi del giornalismo, censurano quelli come noi che sono un po' fuori dal tracciato, dal solco, diciamo, che stanno tra le righe della presentabilità sociale. Non sono proprio perfetti da questo punto di vista, ma che hanno da censurare? Insomma, sono dei cialtroni, tanto semplice. Ma chi è per il capo dei cialtroni? Prima cosa, riconoscere sono stato un cialtrone. Quando avranno detto questo, recupereranno il diritto al rispetto che hanno tutti i gentiluomini e le persone serie, se no sono dei sepolcri imbiancati e degli ipocriti. Ma il primo chi è, secondo te? Il primo dei cialtroni che dovrebbe dire sono stato un cialtrone nella vicenda Ruby, perché poi ci sono altre storie di Berlusconi, ovviamente. Ma non lo so, ho l'imbarazzo della scelta, vogliamo dire Gad Lerner? Vogliamo dire Michele Santoro? Vogliamo dire, non lo so, appunto, per parlare di gente passabilmente viva e vivace. Ma perché d'avanzo che Marco Travaglio? Vogliamo dire i loro direttori? Vogliamo dire i loro editori? E non lo so, che devo fare io? Qualcosa, se mi provo a dire i nomi li dico. No, ma questo è perché, tra l'altro, Lerner ha detto una cosa oggi, che comunque Berlusconi è censurabile sul piano morale. Ma Lerner così non deve dire più niente da questo punto di vista, perché è lui censurabile sul piano culturale e morale, cioè, e deve politico, stare zitto, e pubblico, e lui quello da censurare, non devono più pensare di essere all'origine del potere di battezzare le persone per bene. Questo giochino l'ho impostato io, come sai, l'abbiamo impostato noi del Foglio con le mutande, facendo finta di essere i servi liberi o servi non servili di un grande pregiudicato. Invece era semplicemente un grande perseguitato. La sentenza del processo Ruby è importante perché getta una luce di verità sull'altra sentenza, anche quella attraverso un processo a tappe forzate, Mondadori, finito dice, con la sezione federale della Cassazione. No, il processo che gli ha dato la frode fiscale al più generoso contribuente dello Stato italiano, gli hanno dato che un evasore fiscale. Insomma, cose che fanno ridere tutte le persone che hanno la testa sulle spalle. Quella è un'altra storia, però è un'altra storia, complessa, ma un'altra storia. Io però ti chiedo la stessa storia identica, è l'accanimento contro Berlusconi per ragioni politiche, punto. Saviano, non c'è altro in tutta questa storia. Saviano scrisse, è tutto concentrato sulla questura di Milano e su 2-3 diramazioni napoletane, pugliesi, eccetera, che conosciamo tutti. Ma la Boccassini dovrebbe andarsene alla magistratura, secondo te, dopo questa sentenza? Oh, queste sono frasi ad effetto che non mi va di dire, di pronunciare. Non no, è ma secondo punto. Te, dopo ma una scoperta. Questo è il punto. Il punto è che sono gli italiani i quali avevano il diritto di eleggere il loro presidente del Consiglio e di buttarlo giù con il libero voto popolare, che sono stati espropriati dei loro diritti politici. Dunque, in qualche modo, perché sino a Renzi escluso, la sinistra, l'establishment dei gentiluomini in polpe e ghette, le finte femministe di se non ora quando, e tutta questa pletora di buffoni che hanno riempito le piazze di cretinate, fino a Renzi escluso, hanno espresso e rappresentato l'Italia peggiore, mascherandola da Italia migliore. Senti un attimo, Saviano ha scritto, scrisse all'epoca, Parenzo, senti questo. Aspetta. No, perché ti faccio, ti leggo questa cosa che mi ha fatto impazzire. Gomorra, tutte queste puttanate. No, Saviano, no. Però mi ha fatto impazzire. Saviano, no. No, ti prego. Ti prego, però, se tu leggi quello che scrisse un anno. Saviano è un povero ragazzo usato, non scrive niente. Saviano firma un'immagine che gli hanno costruito attorno e che l'ha distrutto. E questo possiamo essere anche d'accordo. Però il punto fondamentale è uno: scrisse dopo la sentenza di primo grado. Senti, perché questo alcune cose bisogna anche ricordarle. No, io svengo. No, sento male. Se mi fai una citazione di Saviano dopo la sentenza di primo grado, io mi sento male. Ha vinto il diritto. Anche grazie. Ha vinto il diritto. Ha vinto. Delizioso, perché mi devi citare Saviano? Che ha vinto, no, ha vinto il diritto anche grazie a Ilda Boccassini e al suo lavoro non condizionato, non forzato, basato su prove rigorose e riscontri. Cioè, voi vi rendete conto, no? Uno tutti può... abbiamo scritto imbecillità nella vita, ma non tutti siamo Saviano, per nostra fortuna o per nostra disgrazia, visti i diritti d'autore che sono non poco. Giuliano, com'erano le strade quando conducevi ancora, qui? Ancora stavo alle code a Busalla, a Montelupo, all'Astrassigna, è pazzesco. Sono sempre uguali i bollettini stradali, ma perché non se ne stanno tutti a casa loro e sta così bene? Ma scusa, tu lo sai che io... 84% proprietari di case stiano a casa loro gli italiani, no? Ma tu lo sai, Giuliano, che ogni tanto io rimando... sempre a Busalla. No, rimando in onda quando tu hai detto no, le strade in diretta, no! Mi devo confessare una cosa. Ecco, senti. Le strade in diretta sono una boiata pazzesca. Fate qualcosa, vi prego. Non hanno fatto un cazzo ancora, sono passati 2-3 anni. Ma sai come direbbe Grillo, no? Cosa? Che direbbe? Ma ha ragione Ferrara, state a casa, cazzo, parlatevi con l'iPad, con l'iPhone. Che cazzo girate con quelle macchine? Vaffanculo, basta. Non è moderno, ma perché ti muovi, inquini? Stai a casa. Sì, ma non lo dice più, questo è diventato molle Grillo, se ne vuole andare, è diventato... Cioè, Ma non serve, sono nella rete ormai, sono dentro la rete, ci sono sempre. Non serve più a un cazzo, anche Casaleggio, non serve a un cazzo. Lo abbiamo fatto sparire con un click, abbiamo delay sul computer. Abbiamo premuto delay, ciao, no. Ma è vero Giuliano morto, che hai chiamato? Ma come sei morto tu, Cucciani, morto. Ma lo sai che ci sono... La Confindustria, non serve a un cazzo la Confindustria. Beh, intanto facci un attimo, sì. facci fare qualche anno, qualche soldino e poi è ce l'andiamo. È un mezzo vecchio, vecchio. Senti giù, va bene, adesso basta, Grillo, adesso facci parlare un attimo con Ferrara, ma io non ho capito una cosa. Ma pure la borsa c'è ancora, tu lo sai, no? Che c'è la borsa ancora. Sì, vabbè, la borsa è più comprensibile. Più comprensibile. Ho qualche azione pure io. Ma hai telefonato a Berlusconi? Io no, l'hai sentito per telefono? Sì, sì, l'ho telefonato, no, non sono potuto sentire perché una voce gentile ha detto il dottore a Cesano Bosconi, presidente, anzi adesso non chiamano più dottore per fortuna, da molti anni. Presidente a Cesano Boscone, e sì. Mi è venuto in mente che insomma, lui dovrebbe tornare, ci dovrebbe andare la Boccassini a Cesano Boscone. Ai servizi sociali. Insomma, ai servizi sociali, comunque a fare delle opere meno dannose per la collettività. E dunque deve andare via dalla magistratura alla fine. Ma no, questo... Ma perché no? Una bella dimissione, uno... Questa è una frase... In America si dimetterebbe un procuratore che fa... Che va incontro... Ma è una frase esagerata, che vuol dire andare via dalla magistratura? La magistratura è come... È come il Sacro Collegio, nessuno va via. Ma Ghedini è sconfitto da questa vicenda o no? Molti dicono il grande sconfitto, perché alla fine è arrivato Coppi. Sì, vabbè, il grande sconfitto è l'avvocato difensore di Berlusconi, d'accordo? Sì. No, non è così secondo te. Ma dai, su. No, ed è vero che il clima politico, Renzi, eccetera, ha aiutato, come alcuni sospettano, cioè cose, Berlusconi lo si abbatte. Non hanno nessuna relazione, Giuseppe, però naturalmente quello che ha aiutato è il senso della realtà. Senso della realtà. Io ho guardato bene in faccia questi magistrati, questi giudici, sì. Anzi, che hanno espresso il verdetto e che erano, se Dio vuole, nonostante una presenza femminile all'atera, molto diversi da quella specie di corte di Erinni, detto con simpatia, sì, con rispetto, certo. Sempre che aveva condannato per il primo grado Berlusconi, e ho visto nei loro occhi contemporaneamente la pietà verso una struttura processuale che faceva acqua da tutte le parti e l'impossibilità di condannare, ma anche il senso comune, insomma, ma stiamo scherzando? Ma tu dici perché nonostante un uomo di Stato che per 20 anni è stato al centro dei cervelli e dell'immaginario di tutti gli italiani. Vabbè, non è detto che non possa avere commesso cazzate. Ma in questo caso. Che vuol dire? Ma Berlusconi ha commesso 2000 errori, 3000. Ma sì, certo, poi portarle in tribunale. Mattane, portarle in tribunale. Reato penale è un'altra cosa. Ma su questo, cos'è? Con me sfondi una porta aperta, lo dico da quando lo dici tu. No, ma io lo dico a Parenzo, al comunista Parenzo. Parenzo, effettivamente. Ma io sono comunista di cosa. Ma ogni volta hai detto, beh, vediamo se ci sono i reati. Ma era chiaro che non c'erano. Attento, no, ci possono stiracchiare l'Italia, il paese dove calmo, un fatto lo si può trasformare in reato penale in 5 minuti, dai, lo sappiamo. Calmo coi fuochi d'artificio, io non sono mai stato uno che andava a frugare nelle mutande. No, dicevi delle banalità su questo, dai, dicevi delle banalità. Lasciamo lavorare i magistrati, lasciamo lavorare. Ma quello lì, d'accordo, ma questo lo dice, è come un comunicato stampa, è ininfluente, è banale, ma è anche ovvio, normale, no? Che devi fare? Devi arrestare i magistrati, no, lasciami lavorare. Io voglio bene, ma avete toppato alla grande. Ecco, bravo. No, fratello, alla grande, fratello, ma è una toppata che dura da 20 anni, capito? Non è una toppata di 2 minuti. Quello è un altro discorso. Nero. No, papà Giuliano, io ho sempre sostenuto, forse sbagliando, aspetta che bevo un goccio di prosecco intanto, alla vostra salute, Liberté, Galité e Jet Privé. Allora, come sempre, adesso ti mando Vigorelli, sei a Ponza, ti mando Vigorelli ad azzannarti là, ti mando Vigorelli. Adesso arriva c'è anche Arditti, adesso arriva Vigorelli, qui siamo già d'accordo, arriva tra qualche minuto qui a Ponza. Allora, ti voglio dire solo questo. Io, a differenza dei sepolcri imbiancati citati poco fa, ho sempre semplicemente detto che un conto sarà, ed è la verità che esce dai processi, quella giudiziaria, un conto è poi la verità. È un'altra banalità, dai. Questa non hai detto un'altra banalità. No? Però io voglio chiedere a Giuliano questa cosa: ma allearsi col PD è servito a Berlusconi per farsi assolvere? No, non credo. Non c'entra niente. Ma quello è il punto: il PD non è così potente. Qui la vera battaglia non è stata mai col PD, è stata con un certo gusto narcisistico di una sinistra rappresentata perfettamente da Repubblica, che pure tu dici che D'Avanzo è stata l'origine di tutto. Un giornale che ha scritto un numero di cretinate inverosimili. E il primo è D'Avanzo, dici. Tutte, dalla prima all'ultima. E il primo è stato D'Avanzo, dici. Insomma, lui ha degli eredi importanti che devono adesso curare il suo lascito, nel senso di? Riabilitare il suo onore dicendo sì, abbiamo scritto un sacco di cretinate. La fica non può essere processata. Oh là là, ragazzi, buonasera. Berlusconi innocente, chi restituirà a quest'uomo 4 anni di dolore, 4 anni di fango buttatogli addosso? Chi restituirà a Berlusconi il governo? Perché ricordiamo che anche grazie a questo fango nel 2011 ci fu un colpo di Stato che portò alle dimissioni di Berlusconi. Ti voglio leggere un altro commento. Hai sentito la poetica di Brunetta, no? L'incedere lento, quasi, come dire, felice, ma nello stesso tempo drammatizzante, nello stesso tempo angosciato di Brunetta. Chi restituirà 4 anni di dolore a Berlusconi? Chi restituirà il governo di questo paese? Ora è evidente che c'è un pizzico di verità in queste cose, perché sicuramente l'uomo ha sofferto per quello che è avvenuto. Ma ci sta tutto, le lacrime vere. Tutto, senti, senti cosa dice Bizzarri. Ti leggo una cosa di Luca Bizzarri su Twitter. Che dice? Senti, senti un po'. Un gran giorno per noi cui piacciono giovani. Oh, sentiamo come la signora Berlinguer, invece, la signora Berlinguer, direttore del TG3, secondo me dovrebbe essere lei l'erede di Floris, eh? Non c'è soluzione migliore, secondo me. Bianca Berlinguer, qui faccio una campagna, Bianca Berlinguer a Ballarò, ma questa era una parentesi. Non sentiamo... so se le porti bene, ma va bene. No, ma le porterò male. Bianca non Berlinguer so a Ballarò. Non lo so, non lo so. Comunque Bianca Berlinguer a Ballarò, scelta migliore, una con i coglioni, una che non le manda a dire, una che fa accende gli animi, lotta con i grillini. Ormai non c'è più niente da lottare con i grillini che parlano di legge elettorale con Di Maio, però comunque accende la situazione, si scontra con anche con i renziani, ma insomma è una con le palle, dai. Cioè, l'unica soluzione possibile è contrapporre al signor Floris una che ha un minimo di personalità, cioè, questa è l'unica soluzione. Viarello, su, sbrigati, sentiamo come affronta la vicenda della soluzione di Berlusconi. TG3. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il mondo in lutto per la strage nei cieli d'Ucraina, 298 morti, 80 bambini, tutti chiedono un'inchiesta indipendente per trovare i colpevoli. Per l'intelligence americano l'aereo è stato abbattuto dai separatisti russi, ha detto poco fa Obama. Putin promette massima collaborazione. Proseguono le operazioni militari dentro Gaza per distruggere le basi di Hamas, si allunga l'elenco delle vittime, muore anche un soldato israeliano. La concussione non sussiste, per la prostituzione minorile il fatto non costituisce reato. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno assolto Berlusconi. Fermi tutti, ci ho ripensato, fermi tutti, ci ho ripensato, fermi, ci ho ripensato. Ma quarta notizia, quarta notizia, la soluzione di Berlusconi, amico mio, quarta notizia al TG3. Beh, certo, TG3. Dai, su, prima Israele, sì, prima Hamas. C'ho qui, ma stai buono, c'ho qui vicino una persona che devi riconoscere dalla voce. Avanti, chi c'è? Non farmi fare brutte figure. Chi c'è? Avanti, chi c'è? Signor Nuzzi, chi c'è? Buongiorno, sono l'amico dei Notav. L'amico dei Notav, chi può essere amico dei Notav? Quel pericolosissimo attore antimafia che è a favore dei Notav, Buon Cruciani. Chi è? Ferrero? No, la voce di Ferrero no, non è Ferrero. I comunisti non vanno a Ponza. Se dici Ferrero mi offendo, sono Giulio, ciao Cavalli. Giulio Cavalli, Giulio, ma tu sei ancora consigliere, che cazzo fai lì a Ponza? Io non sono consigliere regionale, cazzo. Non sei più, è vero. Politico tutta la vita. Non sei più, non fai più niente, no. Ormai che fai? Sei in disgrazia, che fai? Sei tornato a fare l'attore, Cavalli, che fate? Sono in giro con ti barcameni Parenzo. Sono vicino, in giro con Parenzo. Come campi? Scusa, Cavalli, come campi? Faccio il mio lavoro. Cioè, sai che fai? Sono anche politici che fanno. Scrivo. Scrivi libri. Incontri gente, fai cose. Sì, e poi la sigaretta che te l'ha regalata, la maglietta. Fai queste cose qua. Senti, ma non ho capito, come prendi la soluzione di Berlusconi, tu, caro Cavalli? Un bel colpo al cuore. Io, siccome credo che ci sia un aspetto etico di opportunità, a me in generale non sono mai stato molto di Pietrista. Sì. L'aspetto giudiziario mi lascia sempre un po'. Non te ne frega niente, cioè puttaniere rimane, dici tu, no? Puttaniere rimane. Molti dicono così oggi, Tanto no, comunque. No. Sempre con le donne andava, poi lasciamo perdere i reati. Io, guarda, non penso che il modo per disinnescare politicamente uno come Berlusconi sia affidarsi alle pene del suo pene. Penso che ci sia altro. Le pene del suo pene non è male, però. Allora io ti dico una cosa: secondo me Berlusconi è stato condannato quando era forte e adesso assolto quando non è più così forte. Questa è la mia analisi. Vabbè. Beh, adesso si ringalluzzisce. Vado a continuare a far niente. Scusami, ciao, nulla facente. Ciao. La fica non può essere processata. We don't need no thought control. Marino, provincia di Firenze. Dopo mandatemi l'integrale di Abate, però, del mitico del compagno Abate, però. Non è che solo la figa può essere processata. L'integrale, voglio, sono 35 secondi, mettiamolo dopo. E dopo, sentiamo qualche passante da qui. Marino, provincia di Firenze, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi, caro, dimmi, che c'è? A parte, sono d'accordo, finiamola con questi processi di Berlusconi su queste bischerate. Finiamola. E si pagano noi questi processi, poi? I giudici li stipendi pagano noi. Ma la domanda è questa. Ma se mio figlio, mettiamo 22 anni, lo trovano una ragazza di fare un rapporto con una ragazza di 17 anni... Non gli succede niente. Cosa li fanno a queste ragazze? Nulla. A meno che non l'abbia costretta, non gli fanno un culo come uno stadio, manco per niente. A meno che non l'abbia costretta, non l'abbia pagata o cose di questo, non gli fanno nulla di nulla. Ma sarà. No, ma glielo dico io. Vorrei che fosse così, ma non ne sono convinto. No, io sono convintissimo invece. Con mio figlio sono stato reduce da una sciocchezza. Che sciocchezza ha fatto suo figlio? Una sciocchezza, aveva uno 0,5 di alcol. Ho capito, purtroppo non bisogna bere quando... Ecco, magari avesse dato la condanna che hanno dato a Berlusconi. Perché? Che hanno dato? 4 anni senza patente, analisi pagate sono costate... Ho capito, ma uno non deve bere quando esce, quando esce con la macchina e quando guida. Non deve bere. Una cosa, gli hanno dato un millesimo della pena, hanno dato a Berlusconi e ha rubato 300 milioni anche, insomma, 300 milioni. Vabbè, che paragone c'è? Uno che viene beccato con l'alcol che ha bevuto mentre guida e Berlusconi, dai. Berlusconi ha fatto male a tutti i paesi, Ma con che cosa ha fatto male al paese? Con la politica, allora, può darsi. A parte Berlusconi sarebbe da condannare solo. Ma restano altre condanne. Comunque non è che Berlusconi improvvisamente è diventato un santo. Certo, su questa cosa delle donne è stato sputtanato. Però secondo me lo sputtanamento c'è anche per il fatto che le donne, al di là del processo, raccontavano di andare in massa ad Arcore. Cioè, è quello che cercavo di spiegarti prima. Ma l'avevo già detto io, non c'è bisogno. No, non l'avevi, non è che dici già tu le cose, non è così. Perché quando io dicevo c'è la verità giudiziaria e poi c'è la verità che è quella che può essere politica o dei fatti, sì, la politica è la verità dei fatti, rimane che, beh, è legittimo un capo di Stato che si è circondato di tante, molte, moltissime donne e aveva fatto diventare un posto che era tra l'altro residenza istituzionale, un porto di mare in cui passavano un sacco di donne. Va bene, d'accordo, politicamente censurabile, allora, so benissimo. Dispiace, no, non mi dispiace, è vero, io l'ho sempre detto. So che ti dispiace che uno lo ricordi, ma quale, ma io l'ho sempre detto, ma l'ho sempre detto. Io, tu mi hai accusato di essere filo magistrati. Beh sì, sei sempre filo magistrati. Non è che sono filo magistrati quando assolvono e quando condannano, però attento. Vabbè, ma quando c'è, non è che, voglio dire, se uno, come dire, si fida nella magistratura e pensa che ci possa... Vabbè, senti, sei troppo lungo, fammi sentire Marco da Roma, sei troppo lungo, dai, Marco da Roma, devi avere il dono della sintesi, Twitter dovrebbe aiutarti, lo usi poco. Luciani. Dimmi, Marco. Luciani, stai di un sacco di cazzate. Perché, dimmi. Perché l'hai aperto la trasmissione con Ferrara. E beh, allora, qual è il problema? Eiaculando tutte e due, ma cioè, ma a me come italiano, che cazzo me ne frega se Berlusconi non è stato condannato, buona per lui, bella per lui, come direbbe un ragazzo. Beh, certo, ma allora... Allora? Certo, bella per lui, però qui siamo stati governati negli ultimi 20 anni, sì, da un fottaniere che per 15 anni ha fatto i cazzi suoi. Vabbè, poi quello è un altro discorso. Si dice la figa non si condanna, a me non me ne frega niente. Ho capito, ma io sto dicendo che questo c'è, cioè, stato, sì, dite, l'Italia è stata derisa da tutto il mondo perché lui, ma che ci volevamo pensare? Perché cosa? Per le feste? Ad Arcore non entrava nei ragazzi, allora assolviamo tutti, anche Fede, anche Aminetti, tutti quanti, no? Che cazzo, infatti verranno assolti tutti, vedrai. Fatti, certo. In tribunale verranno assolti tutti per i comportamenti. Capito? Perché Marco, senti un attimo, il problema è quello. Che mi bevo una birra, me levano la patente, non mi fanno più lavorare. Ma cosa c'entra la birra? Scusami, questo. Marco, cosa c'entra la birra che tu puoi bere e per cui non dovresti guidare, no, con Berlusconi che porta le ragazze a casa? Che c'entra? C'entra, c'entra. Luciani, stai di un sacco di cazzate. Padania, terra d'amore, famiglia e realtà, di gente che dentro al cuore ha sete di libertà. Un popolo David, questa è nuova, sì, no, sua... però non mi piace, è triste, non mi piace. Non ti piace, non è triste questa cosa sulla Padania. Carica, mentre se tu mi metti quell'altra. Quella Padania guarda avanti ti piace di più, Ah, Padania guarda avanti. Quella, allora, però questa volta mi distrugge. Sì, questa è un po' mi mette anche tristezza perché il popolo che lavora mi annoia anche, mi stufa, mi annoia, non mi carica. No, la gente se sa, mi hanno già segnalato alcuni incidenti stradali a seguito di questa, Allora, stavolta si è addormentata. Stavolta se l'è presa per davvero Pellegrini, Senti che cosa gli avevi detto. Che paura. Qualche giorno fa, senti cosa gli avevi detto. Hai toccato la madre, però, la madre. Ovviamente era uno scherzo, detto? Ma con tutto quello che dicono a Radio Padania, amici miei, cosa, cioè, questa cosa è una cosa piccola, piccolissima, piccolissima. Senti cosa gli avevi detto, senti. Sì. Chiamate qui invece di chiamare Pellegrino, chiamare l'altro, ma chi chiama Pellegrino? Manco. Sì, ma chiamerà, chiamerà. Ma manco la madre lo chiama. Ma perché si vergogna? Poi un giorno parleremo della questione delle frequenze che acquistano. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Cioè, hai detto che non lo chiama nemmeno la madre, capito? Sì, come modo di dire, come anche i parenti. Cioè, si vergogna, hai detto. Sì, senti come ha reagito Pellegrini, senti. Immagino. Senza dubbi né ripensamenti. Ascolta, bambino scemo, a parte che... No, non voglio trascendere. Ti sei messo in bocca una frase che prima o poi ci incontreremo io e te, una parola che non mi è piaciuta. E quindi ti spiegherò di persona cosa non mi è piaciuto. Sali Padania. Sono settimane che stai predicando le telefonate di orde, bambino scemo. Vedo che anche Cruciani si diverte a chiamarti così, bambino scemo. Orde di immigrati che dovrebbero telefonare e non succede niente. Come mai, bambino scemo? Te lo dico io come mai. Tu c'è solo un modo per far fare agli altri quello che vuoi. Pagare. Paga. Senza dubbi né ripensamenti. Vabbè, mi sono scaldato un po' troppo. Forse non mi valeva la pena. Ma quando ho sentito il bambino scemo citare una cosa. Sì, quelle cose lì sono un po' l'antica, sono delicato, bambino scemo. Io sono qua in via Bellerio. Vieni, vieni, di persona, così ci chiariamo, bambino scemo. Per onestà comunico la mia stazza, bambino scemo, sono un ex giocatore di football americano, sono alto 1,88 m, peso 125 kg. Fai sentire. E non dico altro. Bambino scemo. Guida il popolo. Minchia ragazzi, oh! Come una madre. Cioè, è alto 1,88 per 125, capito? Oh! Oh, ma una bella dieta Tucan gli farebbe bene, però. Sì, questo è vero, sì, sì, sì. Vogliamo fare, Pellegrino, una bella dieta Tucan? Che dici, signor Pellegrino? Facciamo una bella dieta, perché 125 kg, francamente, devi mi sembra un po' troppo. Devi mangiare meno polenta, caro Pellegrino. No, ma la polenta non fa ingrassare. Devi mangiare più couscous, che è più leggero. Ma più la polenta non è che fa ingrassare troppo. Lì è il vino, lì è il vino. Il kebab, sono i carboidrati. Sicuramente mangia carboidrati in momenti in cui non deve mangiare carboidrati. Non lo so. Carboidrati la sera, la birra, l'alcol, beh, sono tutte cose pesanti, cioè la sera si abbofferà. 125 kg, francamente, cioè 1,88, siamo vicini all'obesità, siamo vicini all'obesità, diciamo la verità. Io ho già tanti nemici che qui su questo terreno. Beh, ma dire che uno è obeso, mica dica, siamo 1,88, 125 kg, siamo vicini all'obesità, diciamola tutta. Per cui, prima di attaccare Parenzo, andiamo con la dieta di Ucan, caro signor Pellegrin. 125 kg, 1,88 m. Chiamateci, medici. Che cos'è? Fate un profilo. Uno che è alto 1,88 m e pesa 125 kg. Che cos'è? Siamo verso l'obesità. Puoi solo peggiorare. Alessandro D'Alecco. Anzi, no, c'era Marco. C'è ancora Marco? Marco, dimmi allora, dai, forza. Ma hai fatto freddare, ero partito alla grande. Ma che eri partito? Parenzo, io ti dico che devi tirare fuori le palle, perché quando parlano così di Berlusconi, no? Pensavate a fare un bel pippone di Ferrara, no? E lui deve intervenire, non è che se sta lì a fare i prosecchini ha e fatto pippa. Ha fatto pippa. Capito? No. Allora, che lui gli abbiamo rovinato gli ultimi 4 anni a Berlusconi, mo' gli chiede scusa, mo' gli chiediamo tutti scusa, tutti gli italiani, i giornalisti che hanno scritto la verità. Così dice Ferrara. Noi siamo in fila, gli andiamo a baciare le mani a Berlusconi, capito com'è? E perché? Ma infatti dice nessuno Ferrara. Deve baciare le mani a nessuno, Nessuno Ferrara deve baciare le mani a nessuno. Ferrara dice così, no? Sì, però sì. Se per padre, se riporta nella tomba, esce fuori dalla tomba, addirittura, no, dai, su. Ferrara. Vabbè, ti saluto, va, mo cambio canale, vado a sentire Zapping, che dicono meno cazzate di te. Che vai a sentire Zapp, sei impazzito, sei. Zapping, ma che sei pazzo, sei. Che dicono meno cazzate di quante mi dite voi. Guarda che vengo lì e ti do un sacco di mazziate, altro che cazzate, ti do un sacco di mazziate. Parezzo, e dire che non vado più a PA, io sono il tassista che è nato a Piana Orta. Ma non cambiare canale, non cambiare canale. Non ci vado più, vado su Zapping. Guarda, non cambiare canale. Ma ti annoi lì, ti fai due palle così dall'altra parte, dai, su, Romarco, tanto stai dicendo una fesseria, non vai su Zapping, dai. Non vai su Zapping. Allora dite meno cazzate. Ma non ti preoccupare. C'ha ragione quello che ti ha scritto che stai a scodinzolare come il cagnolino. Ma quale scodinzolare? Ma che stai a dire? Su questo è assolto. Adesso sono tutti bravi i giudici, quelli di prima erano tutti comunisti. Questo è vero. È vero. No, allora, questo è vero che adesso improvvisamente diventano tutti bravi, è così. Amico tassista, io prima ho provato timidamente, prima di essere bloccato e sentire questo Pellegrin che ha chiamato prima, timidamente a dire che nonostante la soluzione rimaneva la questione politica di un uomo capo di Stato che comunque frequentava le donnine. La questione rimane, se non c'è reato, benissimo, ma io sono d'accordo con te che la questione politica rimane, fine, poi non faccio più pippi, arrivederci. Se sei d'accordo con me, quando stavo a fare la sviolinata a Ferrara con l'amico tuo Cruciani, ma te devi capire una cosa. Tu dovevi dire che cazzo stata vista, perché un sacco di cazzate, invece stavi lì col prosecchino, capito? Col prosecchino, a fare a Ponza col prosecchino, con i salatini, no? E noi stiamo a sentire le cazzate che dice Cruciani. L'unico che poteva interromperlo eri te, Non ero io, ma io su questo, caro Marco, su tante cose non sono d'accordo con Ferrara, sui froci, sui gay, sulla chiesa, eccetera. Su questa cosa sono d'accordo con Ferrara. Che vuoi? Su questa cosa, su questo, no? Poi lui ha allargato. Anch'io penso che Berlusconi sia un po' perseguitato dai magistrati. Io lo penso, ma l'ho sempre detto. Non è la mia prima volta che lo dico. La stessa cosa quando hanno votato al Parlamento, che Rubbia era la nipote. Ma quella è una cazzata, l'abbiamo preso per il culo per 20 anni. Sono tutte cazzate, quelle di Berlusconi, sono tutte cazzate. No, una cazzata, è una cazzata. È una cazzata quel fatto che quello che hanno votato. Vabbè, comunque, resta qua con noi. Non fare lo stupido, dai. Resta qui. Lì te fai due palle così dall'altra parte. Buona serata, ciao. Ciao, ciao, ciao. I can't get no satisfaction. Vittorio! Eccolo! Eccoci qui. Com'è? Avevi ragione tu? Ma avevo ragione, mi pare che il ragionamento non fosse difficile. Qui siamo di fronte a casi di straordinaria gravità. C'è un caso fondamentale di spionaggio. Sì, sì. Spionaggio da parte dei magistrati, che potrebbe essere quindi la prima colpa, quello che andrebbe evocato è Letta. Perché Letta non poteva, come capo dei servizi segreti, non essere informato del fatto che stavano intercettando tutti quelli che andavano in villa. L'intercettazione relativa alle questioni sessuali è priva di ogni interesse penale e politico, però è diventato un fatto penale perché si inserisce poi, attraverso questa operazione di spionaggio, l'azione furbissima della Bocassini, la quale, come con Al Capone, ha pensato di incastrare questo sulla minorenne, con una legge fatta da quelle due poverette della Carfagna, della Prestigiacomo, e ha costruito questo teorema. Si è arrivato fino alla concussione, che ovviamente è un'insensatezza, c'è semplicemente un favore, come mille vengono fatti ogni giorno, una persona autorevole, metti Montezemolo, chiede un aiuto per avere un passaporto e il questore glielo fa. Ma nella fattispecie io ho scoperto, cosa che non sa nessuno, che Ostuni, quello che ha fatto l'operazione, tiene per il Milan, per cui il presidente che lui ha sentito non è il presidente, è il presidente del Milan. Addirittura. E qualunque cosa, gli ha chiesto i biglietti, qualunque cosa, niente a che fare, una comica, una cosa ridicola. Ma adesso la Boccassini che dovrebbe, come dovrebbe pagare? Per i soldi buttati, erario dello Stato, per lo spionaggio, per l'azione criminosa contro i diritti dei cittadini, per reato gravissimo rispetto alla libertà individuale. Cioè dico, possiamo consentire che il Crosetto lo prenda nel culo, Vendolo lo prenda nel culo, Colombo lo prendesse nel culo e dobbiamo impedire a Berlusconi di chiamare chi gli pare? Ma dove è scritto? No, quello è un altro discorso, però c'era anche la questione appunto della... Cioè, secondo te questi magistrati dovrebbero pagare con la galera? Con la galera assolutamente, la Boccassini e quell'altro lì, come si chiamava, Germo? No, Forno. Voyeristi, ma poi hanno fatto diventare una vittima, per cui occorre fare, tu lo puoi fare, una campagna come per Tortora, il povero Fede. Ah, quello sì, quello sì. 7 anni perché è un assaggiatore, ma vado a darvi al culo, si assaggino il loro buco nel culo, questi stronzi. L'assaggiatore, sì, una cosa incredibile. Soprattutto, le cose che dice l'ottimo Parenzo ultimamente rispetto al fatto che si tratti di una questione relativa a un uomo di governo, è certamente un fatto significativo, ma l'uomo di governo non è che non deve scopare. Se tu però fai sapere che lui conduce questa vita con l'operazione di spionaggio, lui non ha mai esibito. Sì, però è anche vero che le ragazze prima delle intercettazioni, per esempio la Daddario è andata lì, poi ha fatto la foto in bagno e poi ha raccontato le cose a prescindere dalle intercettazioni. Cioè, questo pure sì, è vero. Ma quello riguarda una cosa diversa. Però è vero che la maggior parte delle cose le abbiamo apprese attraverso le intercettazioni. Sgarbi dice una cosa verissima. Allora, i capi di Stato storicamente scopano più come non c'è dubbio d'arte, non c'è dubbio, o forse anche un po' di più, ma no, diciamo come i grandi crici d'arte, come Sgarbi scopano molto. Sgarbi scopa molto, lo dici tu che scopa molto, fa credere che scopa molto, fa credere. Mitterrand addirittura aveva una figlia segreta, gli ha riconosciuto dopo, ma basta pensare al budino Hollande che addirittura con la moto si nasconde, va a prendere la colazione con la tricetta. Va tutto benissimo, non è qui mai c'era una questione di quantità segreta. Anche di quantità eccessiva. Io all'epoca dissi semplicemente che non era solo una questione di quantità, uno di opportunità, che addirittura la casa era il luogo nel quale, e l'altra di ricatto e di ricattabilità, era solo questo. Poi la questione giudiziaria non me ne fai, cioè uno possibile mai felice, Vittorio possibile mai che tu devi utilizzare il signor Tarantini per farti portare le donne, ma quello è proprio Berlusconi che non è capace. Quello è un altro processo ed è una questione altrettanto irrilevante. Qui il problema di fondo è che si è minacciato attraverso Berlusconi come nemico da abbattere un principio fondamentale di libertà sessuale, che è quello che da anni si è difeso. Immagina se Rubio fosse stato un uomo, Rubino, che rivendicava i suoi diritti come il 17enne che ha scritto Repubblica. Io sono innamorato di Berlusconi, e cosa potevi fare? Creavi questo problema. Quanto alla telefonata, alla richiesta di un favore, come hanno indicato benissimo gli avvocati, è quello che fa qualunque persona che abbia un minimo. Se mi chiama un cardinale o se mi chiama una persona che io stimo, cerco di favorirlo attraverso un'operazione che non si può chiamare concussione, ma favore, comunque dovevi mettere essere... e poi casomai dovevi mettere sotto processo anche lui, come ha scritto anche recentemente il Fatto, il signor Ostuni. Invece non l'hanno messo sotto processo, aveva tutte le possibilità per dire di no a Berlusconi, il signor Ostuni. Allora, l'azione che hanno condotto Boccassini, quello che dice Forno e San Germano, quelle tre soprattutto che l'hanno condannato, quelle tre avrebbero messe in galera anche loro, perché hanno applicato un reato d'opinione a un parlamentare. La loro opinione sull'attività sessuale è quella di persone che hanno il marito, la fedeltà, i bambini, ma è tutto quello di coloro che non lo possiamo sapere questo. Beh, è quello che hanno fatto, hanno applicato con la condanna. C'è un principio morale di tipo vagamente comeinista o cattolico moralista. Cioè, secondo te, non ho capito, com'è possibile che in primo grado ci siano tre donne, a prescindere dal fatto che danno sette anni e poi zero anni in secondo grado? Com'è possibile? Bisogna che il magistrato paghi una sua applicazione abnorme della norma, perché devono pagare pure le tre giudici di primo grado? Quelle che hanno condannato, perché dico, immagino se avessero dovuto giudicare Sartre, Genè, Pasolini, Comisso, De Pisis, Caravaggio, ci avrebbero detto: guarda che non si fa così, non si può scopare. Ma che cazzo volete? Tre incapaci, tre, non dico che voglio essere quelle date da loro, ma tre schifosamente contro la libertà delle donne e degli uomini, con il loro moralismo da suore o il moralismo da presidi di una scuola. Non si fa, ma che non si fa? Ma vai a darvi al culo. Scusa, però adesso, al di là di questo, la questione è molto semplice, è che con Berlusconi potente lo hanno abbattuto, e Berlusconi sulla polvere più. Sulla polvere è facile assolverlo, cioè sulla polvere, insomma. In realtà lo hanno, questi tre, io l'ho capito, leggendo i nomi, capito che avrebbero guardato le cose secondo lo schema di Coppi, che è uno schema di una persona, cioè non ce ne frega niente. A me Berlusconi mi fa orrore per i ministri che ha messo, per Galan, per la Prestigiacomo, per tutta questa roba. Ma che t'ha fatto sta Prestigiacomo? Che t'ha fatto? La legge per la protezione minorile. Poi l'hai sempre corteggiata la Prestigiacomo. No, ma che corteggiata? Era lei che voleva stare con me, diceva, quando era. Ma non è vero! No, sì, ci sono due dichiarazioni di. Ma guarda, è una donna così, io l'ho incontrata, Racconto com'è. Voi leggete le interviste di prima che fossero parlamentari, la Gelmini e la Prestigiacomo, vi dico: nel nostro sogno sarebbe stare su un'isola con Sgarbi. Tu stai dicendo che la Prestigiacomo e la Gelmini, tutte e due volevano stare con te? Lo hanno dichiarato, sono interviste. Ho capito, ma la Prestigiacomo ti ha fatto delle dichiarazioni per stare con te? No, non delle dichiarazioni, l'ha dichiarato ai giornali. No, ma te l'ha detto a te, ti ha fatto delle avance. A me non interessa la Prestigiacomo, perché nella Carfagna c'è gente di quel genere che applica i principi morali in modo così grottesco, mi toglie ogni piacere. Cioè, io non ho nessun interesse per la Prestigiacomo, e l'ho detto subito in Parlamento, ho detto che quello che mi piaceva di più di tutto era la Mazzetto, non la Prestigiacomo, che era Miss Parlamento. Sì. Anche questa cosa fece parlare. Chi è Mazzetto? Chi è sta Mazzetto? Mazzetto era una. Mariella Mazzetto era un sottosegretario della Lega Nord. Ah, sì, è vero, della Lega. Ti arrapava come un pazzo. Mariella Mazzetto, che aveva Mariella i capelli rossi, ed era sottosegretario alla. Quando fece l'intervista all'Indipendente, E lei entrò in Parlamento come una matrona. Era Prestigiacomo invece era mortificata, perché era troppo magra, non aveva abbastanza sex appeal. L'ho dichiarato allora, sull'Indipendente nel 92, penso un po'. Vabbè, allora io voglio capire una cosa: ma è vero che è una sconfitta, ma si sa che a Sgarbi non è che piacciono per forza quelle bellissime, gli piacciono anche quelle brutte. È una sconfitta per lo Stato. No, beh, Ghedini, ha perso Ghedini. Ma Ghedini, io non so bene, certo Coppi si è comportato meglio di Ghedini, ma al di là della linea difensiva, qui il problema è che abbiamo tre magistrate che stabiliscono che una cosa merita sette anni per il nostro, e per Berlusconi e per Fede, e tre che dicono che non c'è niente. Allora occorre là che ci mettiamo d'accordo, cioè, che cos'è reato? Reato non può adesso essere. Adesso bisogna fare la campagna per Fede, però. Visto dall'amico Trizzino, che come io sempre ho detto. Trizzino, che l'ha detto di conto suo, che quella Fiorillo aveva detto: siccome non c'è posto in una casa di accoglienza, tenete seduta Rubi fino alle 7 del mattino. Cioè, lui ha pagato con 6 anni sulla carta per 5 ore di fermo, perché l'avrebbero liberato comunque alle 7 del mattino. C'è una bufala la telefonata è servita semplicemente ad affidarlo alla Minetti, perché questa qui si è messa a piagnucolare lui per... Comunque adesso pure bisogna fare una campagna per Fede, per Emilio. Sì, per Fede come Tortora, Fede come Tortora e come Biagi. Vittima, Biagi era vittima di Berlusconi e Fede vittima di magistrati che lo hanno umiliato, hanno detto non può avvicinare delle minorenni. Sì, sì, non si può avvicinare. Vabbè, ciao Vittorio, ciao. Ciao presto. Ragazzi, ciao, comunque, ciao. Viva la libertà e viva la figa. Sempre, ciao. Ciao. Voglio benissimo, viva la topa! E andiamo con Alfredo dalla provincia di Roma. Pronto, buonasera. Vai! Dimmi. Ferma tutto. Che è successo? Chi c'è? Ferma le stasera ci sono tutti i mostri, tutti i mostri berlusconiani, ferma tutti con noi stasera! Viva la libertà! Abbasso ferma. La Boccassini, stasera ferma tutti i mostri berlusconiani, tutti con noi! Stasera tutti! Ferma le rotative, chi c'è? Che è il sindaco? Chi è? Il sindaco, chi è? Il giornalista di Mediaset. Tutti con noi stasera! È stato sindaco di Ponza, il signor Piero Vigorelli che è qui e che vuole abbracciare fortissimo, mi ha detto poco fa Hilda Boccassini. Caro Piero, ma soprattutto stringendo forte. Vuoi stringerla forte fino a dillo. Fino all'esplosione. Senti, tu in questo momento, ciao Piero innanzitutto, ciao. Piero Vigorelli, giornalista, poi a un certo punto se n'è andato in pensione ed è diventato re di Ponza, sovrano di Ponza, sovrano massimo di Ponza con la sua banca. Due anni soltanto, Sì, è due anni, poi ancora c'è. Quanto dura la Ponza? Altri tre, vabbè, allora sei proprio. Chi te manda via? Poi un altro mandato? Vuoi fare dieci anni a Ponza? No, altri mandati basta. Poi dopo voglio continuare a fare il nonno e il pescatore. Senti, Piero, ma dimmi una cosa: secondo te questi magistrati che hanno messo sotto accusa Berlusconi, oggi assolto, alla fine come dovrebbero pagare? C'era stato un bel referendum che è stato disatteso. Vabbè, il referendum sulla responsabilità civile, d'accordo. È chiaro, quello sulla responsabilità civile. Ma si dovrebbe oggi... C'è stata una legge fatta anche da un mio amico, il professor Vassalli. Sì. Vabbè, ma al di là di queste cose tecniche... ha ridotto malamente l'esito di quel referendum. Sì, ma al di là di queste cose tecniche, una come la Boccassini che fa un processo di questo tipo ed esce sconfitta, oggi si dovrebbe dimettere dalla magistratura? Io questi consigli non li do mai perché dipendono sempre dalla coscienza che uno ha. E dunque? Ho visto che l'accusatore di Tortora è stato promosso. E dunque andrà a finire così? Non lo so, forse nei suoi panni forse mi sarei dimesso, invece ha continuato ed è stato anche promosso dalla procura. Tu dici potrebbe andare, non mi ricordo dove. Potrebbe finire così? E vabbè, che ti devo dire? Che mi devi dire? Niente, c'è la pubblicità. Ciao, ripassami Parenzo. Ciao. Berlusconi assolto. La fica non può essere processata. Luciani, stai di un sacco di cazzate. We don't need no thought control. Stavate eiaculando tutti e due. Allora, un genio su Twitter scrive: vabbè, a sto punto in effetti manca solo Ennio Doris nudo, che lo chiamate? Tu effettivamente sembra... Allora, stasera abbiamo chiamato, Giuliano Ferrara, io lo voglio proclamare con orgoglio, Giuliano Ferrara, Vittorio Sgarbi, un pezzettino di Piero Vigorelli che è stato ancora iper berlusconiano, che vuole abbracciare forte la Boccassini, stringerla forte fino quasi a farla esplodere. Non vi abbandonerò mai. Manca pure eccone lui. Eccone un altro lì. Beh, pigliamo per il culo! No, ma c'è da essere cioè, voglio dire, ma ti rendi conto però ancora in che paese siamo? Questo te lo voglio. Vabbè, ma è normale, però dire. Scusa, se uno viene accusato, no, se uno viene accusato di avere trombato con una minorenne, puttaniere, concussore. Che insulti lui, attento. Vabbè, ma sì, ma è vero, ma infatti i politici manco li abbiamo chiamati, manco li ho citati. Paese, altro grande ospite che sta salendo le scale. No, non voglio nessun ospite. Non voglio nessun ospite. Te lo passo, lo saluto, lo devi riconoscere dalla voce. Mi ha rotto i coglioni questi ospiti. Caso Berlusconi ha qualcosa. No, non mi interessa, non mi interessa. È stato giornalista, è giornalista, è direttore del Tempo, è stato direttore del Tempo, oggi a capo dell'Equo. Eccomi, buonasera Giuseppe. Ciao, ciao Arditi. Allora, ma io dico, allora, la Boccassini, secondo te che fine deve fare la Boccassini? Una domanda sola, ma secca. La Boccassini, che fine deve? Ritirarsi dalla magistratura, mettersi sotto un sasso, dire pubblicamente no. mi vergogno di quello che ho fatto, oppure è normale che uno possa vincere e poi perdere? No, io credo che sia più normale di quello che appare, che vincere può perdere, questa è una vicenda molto complessa, le cui radici sì. non stanno solo nella parte giudiziaria, cioè? Stanno nella storia italiana degli ultimi 25 anni. C'è una grande operazione politica è stata, dici tu? Ma insomma è dal 90-91 e poi in particolare 92-93 che le vicende politiche e giudiziarie stanno insieme, quindi una lettura, come posso dire, legata alla singola vicenda di un singolo processo non ci consente di leggere questa fase storica. Cioè, è chiaro che bisognerà metterci la testa sopra, perché quello che è successo negli ultimi 25 anni è da rileggere, ma non è che questa sentenza ci presenta secondo me uno scenario tanto diverso da quello che conoscevamo. Beh, ho capito, però era uno dei processi, diciamo la verità, gli altri processi erano dei processi anche difficilmente comprensibili dall'opinione pubblica. Qui c'era un processo abbastanza chiaro, cioè Berlusconi, le prostitute, la telefonata per convincere quello a mandare Ruby, a liberare Ruby. Posso dire una cosa a quello che penso? Io penso che tutte quelle vicende lì hanno nella loro dimensione penale un aspetto, non voglio dire marginale, ma insomma tutta quella roba lì non va bene a prescindere dall'aspetto penale, No, ma io sono d'accordo con te su questo, sono d'accordo assolutamente con te. Vabbè, grazie, a presto, ciao. We don't need no education. Oh, chi c'era? Alfredo? Chi c'era? Alfredo, su, non mi Parenzo, mi interrompi per queste cose, guarda, interrompi. Saluta sempre la... moltissimo Bisignani, eh. Ah, è qui il signor Bisi? No, adesso ancora oggi non c'è, arriverà nei prossimi giorni. Perché stamattina mi ha chiesto... Che c'è? Vi saluta Cruciani, Bisignani ha detto... Sono sicuro che va bene. Invece mi ha mandato un messaggino, Massimo Ciancimino mi ha detto, guarda, salutami tanto a Giuseppe. E io ho detto, va bene, gli ho detto, salutami Giuseppe. No, questo lo volevo dire. Ciancimino mi ha chiamato stamattina e ha detto... Salutami a Giuseppe, non risponde più al telefono. Ma veramente non è vero, non mi ha chiamato. Sì. E mi ha detto, guarda, salutami molto a Giuseppe e digli che comunque così non va molto bene. Io però non lo so. Vabbè, comunque guarda, ti saluta. Ah, cosa pazzesca, guarda. Salutami moltissimo Giuseppe Cruciani. Alfredo, dimmi tutto, Alfredo, vabbè, qui si manca. Buonasera, signor Cruciani. Dimmi. Sì, ti sento, dimmi. No, voglio dire solamente una cosa, no, signor Cruciani. Quelli che l'hanno condannato, Berlusconi, erano dei sinistra, i giudici, no? Questi che l'assolvono non possono essere di destra. Ma non lo so cosa sono, cosa non sono. Vedi, questo è il tema stupido. Questo, cioè, tema. Che vuol dire? Che vuol dire? Posso parlare con Parenzo, Cruciani? Sì, vai, parla eccomi. Con Parenzo. Parenzo, quando parli dei ragazzi dei 5 Stelle, no? Sì. Prendi la bottiglia d'acido muriatico e fateci i gargarismi, capito? Perché sì, si deve sciacquare la bocca, dice. Si deve sciacquare la bocca. Con l'acido muriatico, perché se io non contrasti, Parenzo, uno scatarro in faccia, non voleva nessuno. Che cosa in faccia, scusi? Uno scatarro in faccia, lo scatarro significa... Uno sputo, sì, ho capito, uno sputo. Il catarro in bravo, faccia. Bravi questi dei 5 Stelle, tu sei democratico, bravo. Tu sei un gran cornuto e sei bravo, bravo. Capito? Salutami a casa, che stanno tutti bene, li telefona prima di tornare, Adesso ti telefona. Ma come ti permetti? Telefona prima di tornare. Ok, chi è? D'accordo, arrivederci. Chi professore? È? Chi è? Cruciani, ciao, come stai? Poi, amico mio, come stai? Benissimo. Bene. Grandissimo, sei un grande. Che ho fatto di sei male? Sei un grande con Hamas, con Israele, con un sacco di cose, sei un grande. Ho fatto? Ma come? Mi sono messo dalla parte della Palestina. Ma come dalla parte della Palestina? Professore! Dalla parte della pace. E siccome... della pace. E siccome certamente... Hamas, dove io sono, Gaza, dove io sono stato, ho visto. Abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo risolto. Vivono, No, e vabbè, no, io non dico che Israele abbia torto, dico soltanto che... Ma come hai detto? Hai scritto Israele vuole solo la guerra e la distruzione, no, con l'assassino degli innocenti, questo hai scritto. Certo, e questa è la mia opinione, in questo momento questo tipo di reazione è una reazione sicuramente spropositata rispetto a quello che era accaduto, perché indubbiamente... Ma quelli sparano i missili, hanno ragione, perché sono stati uccisi i tre ragazzi israeliani, c'è stata la reazione è stata certamente spropositata, però dico questa, chi ha più prudenza e chi ha più potenza la adoperi, non che si... Ti sei messo dalla parte di Hamas, proprio tu dalla parte di Hamas. No, mi sono messo dalla parte della pace, se mi permetti. Ma che della pace? Criticando da una parte Israele per la spropositata reazione e da un'altra parte Hamas per aver strumentalizzato. Tutte e due... Vabbè, democristiano, hai fatto democristiano. La verità è che questi non vogliono finire mai, perché fa comodo a tutti alimentare questa guerra per i signori delle armi e quant'altro, e quindi non si finirà mai. Ci si è messo pure il Papa, che l'ha fatto incontrare in Vaticano e ha creato altre occasioni di frizione. Ma che c'entra il Papa adesso, scusami, professor? C'entra anche il Papa, perché non si fanno quelle cose di immagine che non servono assolutamente a niente. Bisogna fare l'opera diplomatica. Certo che questo Papa proprio ne fa. Sto Papa, che dici? No, io non dico che è nefasto, dico che prende delle iniziative che io non condivido, perché in realtà poi naturalmente io sono un cattolico osservante, e quindi naturalmente inchino la testa di fronte al Papa, però che questo populismo e questi esibizionismi e queste forme di mediatizzazione dell'attività del Papa siano certamente da non accettare, io non le accetto. Senti una cosa, ma adesso Parenzo diceva una cosa, che siccome tu hai appoggiato Hamas... No, voglio dire questo. No, dillo quello che dicevi. Dillo, non avere timore. Ma se mi interrompi è difficile, dillo. No, voglio dire, Taormina, se adesso Taormina difende Hamas, siamo a posto, abbiamo risolto il problema, vedrai che non c'è bisogno di nessuna azione militare. Se Taormina difende Hamas, siamo a posto, risolto il conflitto israelo-palestinese. David, tu mi conosci e sai come la penso, e sai da che parte sto. E allora ti dico, io non difendo Hamas. E come no? Soltanto, no, io difendo... Hai detto che questi fanno l'inferno in Israele, dai. Io difendo la pelle dei cittadini. Vabbè, ma questo è banale dirlo, professore. No, è così, stanno morendo loro, 200 civili. Quelli sparano i razzi. No, dai, su, non esageriamo, vogliamo mettere la potenza ma tu dici che gli israeliani approfittano del genocidio? Militare. Gli israeliani approfittano del genocidio, dici? In che senso? Cioè approfittano, nel senso, con la scusa del genocidio è tutto consentito a Israele? No, io non dico che sia tutto consentito ad Israele, perché non è consentito nulla a Israele, però loro che hanno subito il genocidio credo che debbano stare più attenti e dovrebbero essere più saggi. Però, avvocato, oggi la cosa fondamentale è la soluzione di Berlusconi, ma questi avvocati che lo difendevano prima hanno dovuto aspettare l'arrivo dei coppi. Appunto, ma io l'ho sempre detto che la situazione per molta parte era quella, anche se io leggo in maniera diversa questa sentenza, perché quando non c'era Renzi al potere e Berlusconi doveva essere abbattuto, è stato condannato, adesso che Renzi è al potere e fa comodo Berlusconi per fare le riforme, tu dici che è una sentenza politica da questo punto di vista? Ma è tutto politico, perché che cos'è? Non è politico, non ho capito. Io dico questo, premesso, perché sennò voi poi mi mettete in pasto alla gente senza... Ma che impasto? Che te mettiamo in pasto? Io dico questo, Berlusconi secondo me non doveva essere condannato fin dal giudizio di primo grado, perché la concussione non c'è. È perché la Ruby io l'avrei scambiata per una sicuramente di età superiore ai 18 anni. Ah, sicuro. Non stiamo a scherzare. Allora, quindi doveva essere assolto. Però adesso tu dici che è facile adesso assolverlo perché è d'accordo col PD. Ma non è che è facile, è comodo, è diverso il discorso. La cosa grave è che quattro anni fa, quando lui doveva cadere, lasciare il governo per consentire a Napolitano di fare il dittatore attraverso la nomina di Monti, di Letta, e oggi di Renzi, l'hanno condannato. La magistratura ha risposto secondo quelle che erano le esigenze della... E adesso la stessa cosa. E adesso è la stessa cosa, questa è la verità. Ma chi c'è dietro? Sempre Napolitano, secondo te? Ma guarda, certamente ci deve essere una regia. Io metto le cose insieme, io metto le cose insieme e siccome è napoletano che ha prima nominato Monti senatore, poi l'ha fatto presidente del Consiglio, poi ha nominato Letta e poi ha nominato Renzi senza con te. Cioè non bisognava disturbare il manovratore Renzi e dunque non bisognava si sta realizzando un disegno che parte sicuramente da Napolitano e magari Napolitano è un altro cioè il Renzusconi un altro burattino in mano a qualcun altro, non lo so, agli americani, a Bilderberg, a chi? Non lo so chi può essere, certamente questa è la situazione allo stato degli atti, ecco. D'altra parte che Napolitano abbia trasformato questa Repubblica in una dittatura non c'è ombra di dubbio, pensate soltanto a quello che è uscito fuori nella trattativa Stato-mafia. Ma adesso non vuole andare a deporre, no? Nessuna ingerenza, appunto, dopo aver fatto quello che ha fatto, cioè dopo aver ingerito attraverso D'Ambrosio e quant'altro, e questo è un dato provato. Non vuole andare a deporre, Grasso e Ciani a dire come sono andate le cose, è certo che non vuole andare a deporre perché il problema è serio. Scusa professore, però un'altra cosa, l'ultima anzi, ma tu ma sei professore, perché lo chiami sempre professore? No? Perché professore? Sei ancora professore o no? È perché che si nasce professori e si muore cretini. Non ci vai quasi mai lì. Ma lo dici tu e non ti permettere di dire una cosa di questo genere, perché io faccio lezione tutti i giorni che sono previsti dal calendario da quando sono entrato all'università, per cui nessuno si deve permettere, queste sono cose che poi domani me le ritrovo rimproverate da qualcuno, quindi queste cose non le dovete dire, io faccio il mio dovere. Ma lo dice sempre, lui, io non l'ho detto. Anche nel pieno della mia attività, pieno della mia attività. Ma dove sei professore? A Urbino. No, Urbino ci stanno gli amici tuoi, io sono a Tor Vergata da 20 anni, per cortesia. Ah, no, io non lo so, per Parenzo che lo sa, io non so niente. Ah, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni con lui. Io so che un mio carissimo amico, Giuseppe, adesso la dico tutta però, Giuseppe Ciulla, che è un mio carissimo amico, giornalista, caporedattore alla Gabbia del signor Paragone, ha studiato all'università, ha studiato su un libro di testo del professor Taormina, che insegna procedure penale, e mi diceva che ogni tanto non era un po' difficile da trovare come altri professori. No, assolutamente no. Respinge questa accusa. Io sono stato assente dall'università, e nonostante questo ho fatto i seminari quando sono stato deputato per i 5 anni dal 1992 al 2006. Quindi non mi rompete i coglioni perché ma è Parenzo questo. Parenzo, io che c'entro? Siete là tutti e due a rompere le scatole alla gente che non finge più. Ma ti giuro che io stavolta, Carlo, non ho fatto nulla. Voglio dire, è Parenzo che mette in dubbio il fatto che tu frequenti l'università. È gravissima questa cosa. Guardate, è gravissima. Io sono disponibile a tutte, diciamo così, le facezie, però sulle cose serie che riguardano la mia professione, il mio ruolo di professore universitario, non mi deve rompere le scatole nessuno, perché nessuno nella sua vita ha fatto il dovere proprio come l'ho fatto io. Ma è Parenzo che ha messo in dubbio il fatto che vai all'università o no? Io non ho detto niente, non so nulla. E ancora oggi sto pubblicando il volume di diritto processuale penale per gli studenti universitari ed è certamente uno dei più apprezzati. Per carità, assolutamente. Ma infatti ho detto che è un libro apprezzato. Ti ho detto, il mio amico Ciulla. Vabbè, adesso non fare. Tu hai messo in dubbio il fatto che Carlo. Hai messo in dubbio, dai, su. Va bene, Carlo. Ho chiesto se va anche comunque, Ghedini è incapace, secondo te? Chi? Ghedini. Ghedini ha portato risultati che voto dai a Ghedini? Disastrosi, certamente io dico una cosa, qui non contano gli avvocati. Beh, perché qui è contato il clima politico. Però certamente Ghedini ha aiutato nella caduta, su questo non c'è ombra di dubbio. E invece Coppi probabilmente ha arginato, ha saputo meglio arginare. Su questa sentenza aleggia già qualche mistero, per cui sapremo in futuro che cosa potrà essere il burattinaio napolitano. Ciao Carlo, a presto. Ciao. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Sì, adesso arriva la pubblicità. Richiamatemi Alfredo intanto. Nicola da Roma, dai, Nicola, dimmi, Nicola. Nicola, pronto? Mi dici qualcosa? Sì, dimmi, dimmi. Pronto? Dimmi, Nicola. Sì, sì, sì, qui ogni tanto non funziona un cazzo, vabbè, normale, dai. Sì, vai Nicola, vai. Allora, niente, io sono un medico endocrinologo e chiamo per il consulto che avete chiesto su Pellegrin. Sì. Dunque, in base ai dati che avete dato, effettivamente Pellegrin ha un indice di massa corporea superiore a 35. Sì. Quindi ha un'obesità di secondo grado. Ecco, ecco, capito Parenzo? Obesità di secondo grado, diciamoglielo chiaro. Questo lo dite voi, che poi... No, lo dico io, ma io ho chiesto a un tecnico, ho fatto appello a medici che conoscono queste cose qui, certo, di dire la loro sulla questione. Lui ha dato le sue misure, no? 1,88 per 125 kg. Ci sta dicendo, signor Nicola da Roma, lei che mestiere fa, Nicola? Io sono un endocrinologo. Un endocrinologo, benissimo. Questi dati qua, adesso al di là del fatto che non abbiamo la cartella clinica, cosa significano concretamente? Significano che uno, se lui già ha delle complicanze, tipo ipertensione arteriosa, sì, potrebbe anche potersi sottoporre, sarebbe candidato alla chirurgia bariatrica. Cioè? Quindi alla diversione biliopancreatica, cioè vabbè, alla riduzione dello stomaco. Cioè bisogna fare un'operazione per ridurre lo stomaco. Comunque lei dice un'obesità di secondo grado. Di secondo grado, quindi assolutamente se ha altri fattori di rischio cardiovascolari deve assolutamente trattarlo. Capito? Quindi, Pellegrin, vatti a fare una visita, va! Luciani, stai di un sacco di cazzate. La zanzara è sempre una grande autostrada verso l'inferno. Ragazzi, bisogna incazzarsi come bestie, con i dipendenti, non con i singoli dipendenti, ma soprattutto con i sindacati della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, amici miei. Leggo da un giornale di oggi, molto informato, Il Messaggero, che scrive: Camera, le super pensioni pagate con mini contributi. I dipendenti di Montecitorio versano meno di 28 milioni l'anno, ma nel 2014 ai loro colleghi a riposo andranno 233 milioni. Con un'integrativa di 33.000, cioè loro versano poco e incassano tanto. E inoltre si vogliono opporre i sindacati al tetto messo dal governo di 240.000 euro di stipendio annuo per i dipendenti, capito? Che tempi. No, che tempi lo dico io. Ma che in tempi... tutti questi basta, la vera casta è quella, basta. La vera casta è quella. Basta con... Stai zitto, fammi finire, mi interrompi sempre la poesia. Bisogna finirla con questa roba qui, con questa autonomia della Camera e del Senato, basta, sono dipendenti pubblici come gli altri. Che cosa hanno di meno i dipendenti del Ministero dell'Economia? Che cosa hanno di meno i dipendenti di un comune, di un piccolo comune italiano? Perché devono essere pagati di meno rispetto a un dipendente della Camera? Solo perché quelli hanno la livrea? Solo perché quelli vanno in maschera? Solo perché sono dipendenti del Senato della... Ma chi se ne frega, devono essere pagati come tutti i dipendenti pubblici, non di più. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così fa cagare. Il sindacato autonomo ha già dichiarato lo stato d'agitazione, capito? Il sindacato autonomo dei privilegiati ha dichiarato lo stato di agitazione, amici miei. L'altra cosa per cui dovreste incazzarvi come bestie è quello che accade in Sicilia. Beh, caro Parenzo, tu non leggi ormai, sei disinformato, viaggi, sei a Ponza, fai i cazzi tuoi, stai con il ragazzino, ma in Sicilia cosa accade? Cosa accade? Accade che il governo ha messo anche lì un tetto, i soldi 240.000 euro. Attenzione, Beh, non ne vogliono sapere, i dirigenti del Parlamento regionale hanno fissato il tetto appunto a 240.000 euro, più di quello dell'ONU, più del segretario generale dell'ONU, capito? Cioè vogliono guadagnare di più di 240.000 euro. Però vedi, anche tu hai delle colpe, eh? Perché? Tu hai delle colpe perché in tutti questi anni hai cavalcato quello che ti dicevo prima, la canea grillina. Io non ho cavalcato nulla. Il problema erano i vitalizi dei politici, che a confronto a questi qui sono, come vi ho detto prima, degli straccioni. Cioè, il problema non è il vitalizio dei politici. Anche quello, anche. No, non anche. Quello è un problema marginale. Il vitalizio dei politici è una stupidaggine. Soltanto voi che avete cavalcato tutta questa antipolitica, oggi vieni a scoprire che un dirigente della Camera guadagna 240.000 euro, cioè quanto Ban Ki-moon. Allora, siccome tu... No, dirigente della Regione Sicilia, non della Camera. Comunque uguale, anche quello della Camera. Ma allora vogliono andare oltre, lo vogliono andare oltre. Ecco, ma siccome invece il problema era indicare questi che sono la vera casta, i politici sono quelli che sono in prima linea, che sono presi i pallettoni di tutti voi. C'era Alfredo dalla provincia di Roma. Alfredo? Al servizio di questa, di questo mainstream peloso, brutto ormai, per cui era tutto da buttare al mare. Alfredo, dimmi. Sì, questa è la radio che devi fare, Crucià. Queste sono le cose che devi dirci a noi, a noi, a noi poveri. Ma stavi, che stavi dicendo a Parenzo prima? Che Parenzo, quando parla di 5, io siccome quando sento parlare con i ragazzi di 5 Stelle, è come se fossero miei figli, i miei nipoti, sento parlare. È gente pulita, gente che non ruba, non sta rubando. Ma certo, va bene, d'accordo. Invece quel pezzo di merda di coso, là, di, come si chiama? Di Parenzo? Di Parenzo. Se deve sciacquare a poco, io domani vado a Ponza, se lo vedo gli devo sfatarlo un flash. Ancora, ma che vai a Ponza? Che vai a fare a Ponza? Perché come si permette lui di ridicolizzare? Tu si può ridicolizzarli, dicesse quello che fanno in Parlamento, che non fanno niente. Allora, vabbè, ma scusa, ma io adesso non è che posso chiamare la polizia e fare proteggere Parenzo perché tu vuoi andare a Ponza a dargli una scatarrata in faccia? Ma che protegge? Quello è lo scarafaggio, conosci tutti i buchi. Ma che lo scatarro ammazza, lo scatarro. Ma Alfredo, ma tu sei un pazzo, vuoi andare a scatarrare in faccia a Parenzo? Ma perché? Ma perché sono sì, perché sento offendere i miei figli, sento offendere i miei nipoti. Ma uno... quando mai ha offesi i tuoi figli e i tuoi nipoti? Quando la no, ma se non parla dei 5 Stelle, no, di quei ragazzi. E che so, figli tuoi? È che io, come se fossero i miei figli, perché li vedo puliti. Quello che manca in Italia è la pulizia della pulizia, no? Questi politici che sono bugiardi, arrubano, fanno questo, quell'altro. Parenzo, diciamo il discorso, lei adesso per la trasmissione, no? Parlando ma di guarda che, problemi, guarda che io non ce l'ho con i deputati simpatici, anche giovani, dei ma come no, come no? Stanno, no, ti ho detto un'altra cosa, io in tutti questi anni ho detto un'altra cosa. A me loro stanno anche simpatici, sono facce pulite, di molti di questi non conosciamo neanche i nomi, se non alcune follie che ogni tanto dicono, gli UFO, ma sono anche simpatici, sono in buona fede. Il problema è tutto quello che avete costruito, hai costruito intorno a questa roba. E basta, cioè, però con questa storia, basta. Una guerra alle persone sbagliate, perché la vera guerra è alla burocrazia, ai mandarini, ai dirigenti, a questi qui che infatti, nonostante la politica, non cambiano mai, perché la politica gli dice, mettiamo il petto agli stipendi, questi ti dicono di no e riescono a farti dire di no e voi continuate a dire i politici, questi dementi che telefonano nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, i politici sono dei dementi, questi che chiamano e continuano a dire i politici, poi c'è un corno, poi hanno pochissimo potere e hanno anche a questo punto sono lì vittime anche di questi qui, vittime dell'economia. Perché non hanno nessuna possibilità di governare nulla ormai, perché il ministro dello sviluppo economico non può fare niente, zero, nulla di niente, non sviluppa proprio niente. Un ex ministro dello sviluppo economico, di cui non ti dico il nome, io gli ho chiesto, scusami ministro, ora non più ministro, ma tu quando eri lì cosa potevi fare? E lui mi ha detto mettere le persone intorno a un tavolo, fine, cioè fare una sorta di moral suasion, del resto non potevo fare nulla, hai capito? Quindi il problema non è questa, dice il ministro dello sviluppo economico, cosa fa? Hai finito? Oh. Stasera hai aperto la trasmissione con Ferrara, stavate eiaculando tutte e due. Che tempi. I wanna watch you bleed. Lorenzo è con noi da Portofino, il divino Telma, buonasera. Ci mancava. Vi salutiamo e benediciamo da Portofino, salutiamo i nostri fedeli ascoltatori. Nessuno, cioè? Ed ignoriamo quello muscolo insignificante, sì, che sta da contorno. Meno male. Divino, scusi un attimo. È arrivata la vanna. Lei Martina. Aveva previsto la soluzione di Berlusconi, così tanto per capire. Certo. Ci siamo occupati più volte del Berlusconi in un quadro molto ampio. È previsto da lunga pezza che ci siano stati, ci siano e ci siano ancora nel prossimo futuro ulteriori oscillazioni verso, sì, la soluzione e verso la condanna. Ma come, che vuol dire, scusi, Divino? Adesso... Ci saranno processi dove sarà nuovamente condannato, seguiti da altri dove sarà nuovamente assolto. Parenzo, che vuol dire? Scusa, hai capito? Vuol dire, semplicemente, come quando le previsioni del tempo. Ma fate tacere questo idiota, ma buttatelo fuori. Scusi, insomma, Divino è disonorevole persino per il circo Barlo. Mandatelo a vendere pistacci, lupini, qualunque cosa, insomma. Sarà, i soldi che dati domani a lui, datili a noi, che servono per giuste cause, per certamente di ben altro livello, di ben altro. Dobbiamo dire che siamo molto compiaciuti perché tutti cosa? I nostri vaticini riguardanti i mondiali di calcio, come è noto, sì, si sono avverati. Ma che vuol dire? Lei ha previsto la vittoria della Germania? Ma figurati. Noi abbiamo previsto, e chiunque, gli sciocchi, gli increduli, se, sì, vogliono verificare, lo possono fare facilmente. Sì. Andate nel podcast di Un Giorno da Pecora, certo. Un Giorno da Pecora, e troverete una serie non di andate nel po'. Di no. Vaticini. Non ci andate nel podcast là, ma comunque lo diciamo noi. Tu, caro Divino, lei aveva previsto la vittoria della Germania, giusto? Esatto. Ma allora la soluzione di Berlusconi però non l'aveva prevista. Noi non ci siamo mai occupati di mai. Questo aspetto specifico, mai, certo. Non è che possiamo dedicare, certo, tutta la nostra esistenza terrena a quel che accade o non accade al, certo, dottor Berlusconi. Abbiamo cose ben più importanti da fare. Però in un quadro generale quando, certo, siamo stati richiesti in alcune occasioni di, sì, valutare l'iter esistenziale, sì, del dottor Berlusconi, abbiamo più volte rimarcato, sì, come sarebbe stata una sorta di altalena, talune volte avrebbe vinto e talune avrebbe perso, ma il risultato finale comunque l'abbiamo sempre, ti guarda, Parenzo, hai capito qual è il risultato, tutto, finale che conta, qual è il risultato, qual è il risultato finale, comunque sia, e quali che siano le prossime, sì, vicende, è da considerarsi fuori da un agone politico dell'inner circle, quindi potrà fungere da contorno ma non da protagonista, motore, certo, primario. Hai capito, Parenzo? Guarda, ho capito questo. Tu adesso chiedi adesso a questo signore, questo divino Telma, no? Gli dici, sì, scusa, ma come andrà il governo Renzi? Lui dirà, guardi, noi abbiamo vaticinato e il governo Renzi avrà dei problemi ma avrà anche dei successi. Lui dice, cazzo, beh, però, una cosa importante ha detto, Sì, noi abbiamo previsto tutto. In realtà noi dobbiamo occuparci del dottor Berlusconi nelle ultime fasi ci, sì, siamo occupati del giovane signore fiorentino. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine, ve lo dice. Ma è vero, Divino, che lei va in Caucaso? No, finalmente, sì, abbiamo modificato il piano degli spostamenti, era prevista, sì, una visita. Sì, però Divino, lei a Portofino ma non si sente in cazzo, scusi un attimo, vogliamo precisare meglio, lei andrà in Caucaso quando, caro Divino? Stavamo dicendo che in realtà dovevamo andare in Israele in visita pastorale, era già stata programmata la partenza, sì, per il 2 di agosto, vai, poi quando Hamas si è messa lanciare i missili dicendo anche di non atterrare a Tel Aviv, naturalmente la nostra cancelleria passata al piano B, quindi faremo una visita pastorale nel Caucaso partendo sempre il 2 agosto. Scusi, che c'è nel Caucaso però? Niente, per fortuna. Sì, la prima tappa sarà l'Iran. L'Iran, cioè, certo, lei passa da Israele all'Iran, dove andare in Israele vai in Iran, non è la stessa cosa. No, ma l'Iran essendo una solida dittatura teocratica dove il dissenso è sonoramente vietato, quindi sì, si usa lo sassile, si usa il mezzo coercitivo, quindi da quel punto di vista lì non abbiamo assolutamente timore di essere bombardati dai missili. Invece in Israele sì, perché Hamas non ci garantisce sicurezza veruna. Se noi atterriamo a Tel Aviv, sì, annuncia la sospensione del lancio dei missili, arrivano persino a lanciare i missili quando noi arriviamo, quindi insomma questo non era possibile. No, non era possibile, capito? Beh, guarda, lì c'hanno già tanti problemi, che sono l'arrivo di uno vestito in maschera, porta un po' di colore nei luoghi della, di una delle più antiche religioni del mondo, sì, i centri zoroastriani, sì, dove ancora si adora il fuoco sacro, non c'è dubbio, e lì noi saremo per rendere omaggio a queste guarda che divinità. Lì quel non paese là è un parere di questo omuncolo assolutamente, ecco, non ci interessa, mandatelo a studiare, mandatelo all'asilo nido, dategli qualcosa da fare, dategli colori, il giallo, il blu, il rosso, dategli il nero, qualunque cosa, il pongo, ecco, dategli il pongo, perché caro col pongo può andare avanti per almeno un'oretta. Caro il mio divino, sempre più ubriaco, ti volevo dire questo: sono molto felice che tu vai lì in questi paesi, perché queste teocrazie, come tu giustamente hai ricordato, non tollerano le pagliacciate, quindi se tu vai lì vestito come vai vestito a dire ecco vi benediciamo tutti, questo tempo 30 secondi sbarchi dall'aereo, tum, paese serissimo, ti prendono e ti sbattono in gattabuia. Vabbè, senza neanche farti processare. I timori crescenti che possa scoppiare la guerra mondiale. Ah, certo, ecco, appunto, io le volevo chiedere questo vaticinio e poi chiudiamo. Scoppierà la terza guerra mondiale, caro divino? Come noi, anche nelle nostre precedenti opere, abbiamo più volte enunciato, sì, il libro dei segreti, il libro di Orion, magia, eccetera. Non c'è dubbio. Allora, testi fondamentali. È certo che scoppierà la terza guerra mondiale. Ah, l'abbiamo detto innumeri volte. Abbiamo detto, sì, anche che il focolaio di probabilità massima, di quasi certezza, come peraltro anche il nostro vecchio collega Michel de Notre Dame affermava, Michel de Notre Dame, sì, collega, certo, è collega. Il Medio Oriente. Noi concordiamo con Michel de Notre Dame, sì, sì, noi crediamo che sia esatto, è proprio lì, cioè scoppierà la terza guerra mondiale. Ma non adesso, non quando noi saremo in Iran. Ecco qua. Bene, grazie, lui divino. Lui non è che concorre con Michel de Notre Dame, lui concorre con i più grandi malati di mente della storia italiana. Altro che sì, certo, carino, certo, carino, però noi abbiamo 6 lauree, tu cosa noi. Cavolo hai? Cosa cavolo noi. Hai? Ma ti rendi noi. Conto che tu non sei niente. Sì. Noi abbiamo il diploma dell'IFP di Milano, tu cosa cavolo hai? Torna nella felonca. Evidentemente qualcuno che ti ha dato un calcio dove tu ti fai, perché se no non si capisce come un demente allo stato puro, quale tu sei, possa essere tagliato non sapendo cosa dire e cosa fare. Tu sei la vergogna! Non di Radio 24, ma di quei quattro babbei che ti pagano, che potrebbero spenderli molto meglio in altri luoghi e con altre persone. Si sappia che in Italia esistono migliaia di escort. I soldi dateli a loro, che sono almeno spesi bene, non al demente. Detto questo, la saluto, divino, la saluto. Anche noi ti benediciamo. Grazie. Machine, she cut the motor and clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had a sightless eyes, telling me no lies. Voi siete una valvola di fuoco fenomenale, minchia, non abbandonate, continuate a picchiare duro e Razzi e Sgarbi cazzo tutta la vita, vi prego. Claudio da Verona, buonasera. Ci vediamo tra un attimo. Claudio? Sei pronto? Dimmi, vai. Paolo, tu Cucciani? Sì, vai, dimmi. Buonasera, dottor Cucciani. La stimo moltissimo. Volevo parlare riguardo al suo collega, no? Ecco. Io ho 55 anni, sì, ho iniziato a lavorare 15 anni, quindi capisce lei che livello culturale posso avere. Quindi volevo dirle che tutte le sere mi alzo mattina alle 4 e torno la sera alle 7:30-8 e sì, ascolto la sua radio con molta attenzione. Vabbè, allora? Però questa sera sono scoppiato a sentire il suo collega. Perché? Così. Allora mi aspetto, volevo dire solo una cosa. Io sono veneto di Verona. Voto Lega, è vero, voto Lega. Forse avrò sbagliato. Vabbè, allora chi ha detto che lei ha sbagliato? No, mi sono stufo di essere insultato. Voglio dire una cosa che al signor signore che su collega lì, Parenzo, sì, in studio, che mi sembra avuto una breve parentesi anche nel nuovo veronese con poco successo, forse perché è ebreo, adesso è entrato a Radio 24. Ma che c'entra? Volevo dire solo molto incazzato che se a quel caso di Norimberga avessero conosciuto signor Parenzo, avrei avuto delle attenuanti dei racchi nazisti, penso, molte attenuanti, perché ho rompi balle quelli veramente, Saluti, buonasera, l'ascolto in diretta. Salute. Ma che deve ascoltare? Ha detto una puttanata il processo di Norimberga, eccetera, ma ti rendi conto o no? Ci sentiamo lunedì, ragazzi, eh? Zanzara Best! Zanzara Best, il peggio dell'anno. Dottor Barca? Sì, la sento male, mi dica. Buongiorno, dottor Barca, è la segreteria del presidente Vendola, le passo il presidente. Sì, grazie. Sì, Fabrizio. Ehi, Nick, scusa un secondo solo che devo saltare su un taxi, se puoi restare in linea. Sì, come no. Sto a Napoli. Ce la facciamo? Ok, ciao, grazie. Stai bene, buon lavoro, eh? Ottima cosa. Eccolo, oddio qua. Ci proviamo, sì, ce la fa. Pronto? Sì, ti sento, come stai? Ma non bene, perché non amo i soprassalti, eccetera. Io non ho, sono sotto una pressione, Nicky, che... crescente, ma come dire, io sono sempre, non ci penso proprio, tanto per essere chiaro, ma proprio. Però come capirai, visto come sono fatto, eccetera, insomma, mi costa. Non ho mandato, ho parlato con Grazia, pensavo 48 ore fa di averla stoppata con una cosa molto. Mi senti? Sì, ti sento. Con una cosa a Graziano molto precisa. Quindi ho spiegato che, come dire, nel mio ruolo, io sono un dirigente dello Stato, insomma, penso che per quello che hanno combinato e per il modo in cui hanno combinato questa cosa, come dire, paradossalmente se fallisce anche questa è un disastro, però non possono pretendere che le persone facciano violenza ai propri metodi, ai propri pensieri, anche alla propria cultura, questa, e quindi che io avrei dato il massimo contributo dal mestiere che faccio. Sono stato proprio chiarissimo, ho detto, sei stato chiarissimo, dico, evitiamo che adesso nasca una cosa nella quale vengo forzato, perché io non sono uno che faccio, anzi più forzate. Poi è iniziata la sarabanda del paron della Repubblica, che continua fino a questa cosa che insomma hanno spedito i miei, ma una sarabanda, e lui non si rende conto che io più vedo un imprenditore dietro a un'operazione politica, a me io più ho conferma di tutte le mie preoccupazioni, un imprenditore che si fa sentire, che si fa eccetera, mi segui? Sì, ti seguo benissimo. Essendo, Nicky, una cosa che è priva, non c'è un'idea, c'è un livello di avventurismo, non c'è un'idea, non essendoci un'idea, siamo agli slogan, e quindi salvare la patria da un lato e dall'altro fare cambiare la patria, ecco, queste sono le cose. Dopodiché io non ho, più cresce, più sono, solo che questo mi rattrista, cioè, non sto male, non so come dirti, perché sono preoccupatissimo, perché vedo uno sfarinamento veramente impressionante. Questa è la mia versione, tu probabilmente avrai altri elementi. Io semplicemente ero molto preoccupato, ma adesso mi stai rassicurando, hai rifiutato, insomma. L'ho rifiutato secco, ma secco in un modo, ieri ho dovuto scrivere un messaggio, attraverso l'annunziata mi è arrivato un messaggio, dice, ma se ti chiama il Presidente? Ho dovuto mandare un sms che è scritto così, dico, per la mia persona, per me stesso, per il mio partito dall'ego, per il contributo che posso dare a qualunque governo come mio dovere da direttore generale dello Stato e per i rapporti con il Presidente a cui molto tengo, ti prego di non farmi arrivare nessuna telefonata. Più chiaro di così. E ho chiesto che mi venisse data, perché non la voglio questa telefonata, perché non c'è telefonata di fronte alla quale io cambio, però tu capisci bene, Nicky, che vorrei evitare di portare questa cosa fino, capito, al no in piazza, non so come dirti. Assolutamente. Devo dire in piazza, quindi un no, ma sono colpito dalla l'insistenza dal segno della loro confusione, disperazione. E poi tutto questo, ovviamente io dovrei essere quello tuo, ma io non sto neanche insomma. Tutto questo c'è pure la copertura a sinistra, ovviamente, stava a sentire, ma questa cioè, sono fuori di testa. Sì, è fantapolitica, Fabrizio, è fantapolitica. Ma Matteo ti ha detto qualcosa in particolare? No, lui no, tra l'altro è tutto questo non capendo neanche le persone, perché mi chiami, è ovvio che io vengo, ci vediamo mezz'ora, ti spiego, in 5 minuti no, senza farti troppi preamboli, e poi ti do anche quel consiglio, perché poi io sono così, come dire, penso che sia, ti ripeto, il mio dovere due volte come persona che è politico e come persona che è amministratore dello Stato di darti le idee, giusto? No, tutto questo attraverso terzi, quarti, quinti, un imprenditore. In effetti sono sbigottito, poi questo governo con i diversamente berlusconiani. E certo, cos'è cambiato? Non è cambiato niente con questo principe del teatrino, come lo chiamo io. Ma poi una con molta sincerità te lo dico, è un problema di rapporti fiduciari, cioè io credo che... In che senso? No, che c'è una cosa che si chiama umanità. Cioè io penso che in tutta questa vicenda, oltre alla responsabilità politica, ci sia anche un elemento disumanizzante, cioè il metodo è contenuto oltre certi livelli, no? Tutto questo è avvenuto con responsabilità e dei modi, con un livello di personalismo, con un passaggio all'io, come è stato notato. E funziona così, purtroppo. Che ha assunto delle misure in questa vicenda che sovraccarica di aspettative. Tra l'altro, Nicky, la cosa è seria, al di là della cosa risolta, per cui risolta nel senso che poi per me ci sto male, ma è risolta. Il problema vero è un altro. Ma tra 30 giorni, quando si capisce che non c'è niente, il paese va di testa. Questa è la vera cosa. Sono pienamente d'accordo. Già ragionato. Senti Fabrizio, un'ultima cosa, poi devo scappare pure io. No, ma mi fa piacere, perché io non t'avevo neanche chiamato, ma insomma, perché francamente speravo che fosse considerato ovvio, però insomma a questo punto forse non è più ovvio nulla. Oh, io ti ho pensato spesso, mi è venuto un dubbio, ma l'imprenditore al quale avevi accennato chi è? Perché adesso non vorrei... Ah no, il padrone della Repubblica. Adesso c'è stato pure il clacson. No, il padrone della Repubblica. Ah ecco, allora avevo capito bene. Continuamente, con una forza in diretto di SMS attraverso un suo giornalista e attraverso adesso questa cosa che hanno lanciato mezz'ora fa di chi vorresti col ministro dell'economia, dove io ho la metà dei consensi, capito? Sono tutti incredibile. Mezzi. Incredibile, leciti, per carità, leciti, mica niente, però insomma. È incredibile, va questo bene. Questo è il modo di scegliere di forzare, di scegliere, di discutere. E non una volta, attento, e ti senti bene, che così sta ancora peggio, poi salutiamo. Solo una volta chiedendomi, ma se lo fai, cosa fai? E se io ti dico che faccio una patrimoniale da 400 miliardi di euro, perché secondo me va fatta, che mi rispondi? Va bene? Capisci la follia? Lo so, sono cose folli. Senti Fabrizio, devo salutarti, mi ha fatto piacere. Ok, a me. Ciao. Risentirti. A presto, ciao. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Questa sera tenteremo un collegamento speciale, caro Parenzo. Non è stato mai fatto un collegamento con la Madonna. No, ti giuro. Un collegamento con la Madonna. San Bonico, provincia di Piacenza. Parleremo con la Madonna. Ma no, ma adesso non dir così. Parliamo con la Madonna stasera. Ma non si può dir così. Guarda il cielo, delle anime, vedi le stelle più bisognose della tua misericordia, e non la distanza. Ma Ci siamo quasi. Avanti. Ci stiamo per collegare con la Madonna. È il momento di passare. Lasciate passare. State fermi tutti. State fermi. Ci stiamo per collegare con la Madonna. Auberté, parla. E dai, Celeste Obertelli, parla. Chiedo di pregare, figlioli. Beh, sì, figlioli. Ti raccomando, pregate sempre. Ma con chi parla? Anche stasera, diverse persone in mezzo a voi verranno liberate. Liberate. Non abbiate paura, figlioli, vi prego. Lasciatevi andare, vi prego. È il Signore che vi prende. Solo Lui vi ama. Non vi abbandona mai. Non abbiate paura. State con Lui. Parla la Madonna. Entrate sempre nelle chiese. No, parla sempre Lui. E pregate. Pregate sempre. Pregate per tutti quelli che non pregano. Fatelo. Sono sempre qua in mezzo a voi. Stasera l'angelo veglia su di voi. Vi amo tutti. Non abbiate paura di lui. Lui vi aiuterà e sconfiggerà ogni male da voi. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ma scusa, alla fine io dico una cosa. Ma io non ho capito. Parla, aspetta, lui, sto Celeste. Sì, ho capito, non è che c'è la voce. Hai detto. Ma non c'è la voce della Madonna. Ma questa allora... era Celeste Obertelli in collegamento Celeste... con la Madonna. Obertelli, sensitivo, che diceva, quello che ha sentito dalla Madonna. C'è la Madonna che parlava. Poi non ha detto un cazzo, perché non ha detto nulla, diciamo la verità. Cioè, non ha detto niente, ha detto andate, pregate, vabbè, d'accordo, insomma. La voce della Madonna. Filippo Manwuller a San Bonico. Che succede lì a San Bonico, Filippo? Siamo in tantissimi, 500 persone, fa un freddo cane, siamo in mezzo alla quella che chiamiamo Motta, sì. Piacentino, il fango, mezza gamma di fango, tanta gente, sì. La strada è bloccata, addirittura sono arrivati i vigili per sbloccarla, sì. Stanno ancora pregando, è da più di un'ora, sì, fammi sentire la moglie quello. Laura adesso farà risentire la registrazione, sì. Delle parole di Obertelli a seguire. Cerimonia. Fanno risentire le parole di Obertelli, cioè le parole della Madonna. Le parole che noi abbiamo sentito in diretta, loro le registrano e le fanno sentire in chiusura di serata. Sì. E poi ci si ridà appuntamento a giovedì successivo. Tra l'altro, il primo giovedì del mese. Sì. Obertelli vede anche San Michele Arcangelo. Pure. Non solo i tre angeli con la Madonna, ma anche San Michele Arcangelo con lo spadone. Vabbè, diciamo, ma lo vede in che senso lo vede? Lo vede San Michele, mi sto cominciando un po'. Ha delle visioni. Lo visualizza in mezzo al campo. Ma solo lui però. Solo lui, solo lui. Vabbè, questo fa il fiolaio. E mi dicono pure che tre anni fa, sì. A oggi, sì, lui c'era. A quanto pare riuscì a prevedere il fatto che Papa Ratzinger si sarebbe dimesso, sì. E sarebbe arrivato un altro Papa. Capito? Miracolo. Cioè, ma guarda che so cazzi, cioè, da tenere in considerazione questo Bertelli. Sono... Bravo sto Filippo Manwuller, ha fatto un gran lavoro. Scusa Filippo, mi fai sentire qualche voce di qualche squinternato che sta lì? Perché io fammi sentire uno. Signori, cioè... qui è la prima, siamo in diretta con la Zanzara. È la prima volta che venite qui? No. Siete di vecchia data? Sì. Avete mai visto, visualizzato miracoli, cose di questo tipo? No, miracoli no. Mai. Come stiamo a sapere, crediamo e basta. Crediamo. Non più fiducia. Cioè, sapete che il vescovo ha diffidato molti preti. Lasciamo stare il vescovo, fa niente, che dica quello che vuole il vescovo. Non vi stanno molto simpatici i preti? No, però siamo volontari. Siamo preti. Vabbè, Filippo, chiedi un attimo per chiudere, se davvero pensano che ci sia la Madonna che appare lì. Voi pensate davvero che ci sia la Madonna che appare qui? Certo, ci crediamo. Certo. Okay. Voi non l'avete mai visualizzata, ma credete in quello che dice Obertelli. Una roba incredibile, dai. Questo Obertelli dov'è però? Fino alle 9. tutti i giovedì. Tutti i giovedì. Tutti i giovedì. Tutti i giovedì. Tutti giovedì. Poi c'è la seconda domenica, ho sentito prima, non c'era qua. La seconda domenica c'è la preghiera alle 11:15 e domenica c'è l'apparizione mensile. Pure. Quindi a febbraio, un mese speciale, la visualizzano 5 volte. No, no, non è un mese speciale. Non è un mese speciale. Ma poi io non riesco a capire, non riesco a capire una cosa, ma perché proprio il giovedì? Filippo, ma perché proprio il giovedì? Vabbè, ti ringrazio e ti abbraccio, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. Ciao, Giuseppe. Ciao, ciao, ciao, ciao. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto, dritto. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Luciani, Luciani, perdi un sacco di cazzate. Voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30 lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24, la passione si sente.